Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 28 giugno 2015. Banda larga. L'Italia ha cambiato passo. Siamo a buon punto. Il nostro paese è a 5 anni dall'attesa scadenza del 2020, fissata dall'Unione Europea per gli obiettivi dell'agenda digitale, ha accelerato il suo sviluppo tecnologico. Con il 2013 il digital divide di alcune aree del paese è stato annullato, ma la vera sfida resta la diffusione della banda ultralarga. Il piano del governo, lanciato circa 2 anni fa, ha puntato sul recupero di risorse per le aree in cui l'investimento dei privati non è conveniente, ma soprattutto sul coordinamento delle iniziative per non creare anche in questo settore un'Italia a due velocità. Fin qui la notizia del 28 giugno 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radice nel presente, in questo 2012. Di banda larga e agenda digitale si parlerà nel convegno che questo pomeriggio aprirà a Torino la 5ª edizione di TOSM, Torino Software and System Meeting, evento dedicato al settore ICT per il business. Tra i partecipanti il ministro dell'istruzione e della ricerca, Francesco Profumo, e anche il coordinatore dei tavoli sull'agenda digitale del Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, Paolo Donzelli, che così fa il punto sul piano del governo per la banda larga. Nell'ambito della cabina di regia, quello che si sta cercando di fare per l'agenda digitale italiana è di raggiungere gli obiettivi indicati dall'agenda digitale europea. Quindi, in primo luogo, l'obiettivo è dare disponibilità di banda larga a tutta la popolazione, quindi tutto il territorio nazionale, entro il 2013. Questo si potrà raggiungere valorizzando tutto quello che è già stato fatto sul territorio, in termini soprattutto di infrastrutture, quindi anche di fibre che sono già presenti, magari non utilizzate o sottoutilizzate, e poi anche cercando di reperire in modalità congiunta tra governo, regioni e operatori privati ulteriori finanziamenti per realizzare nuove infrastrutture. Sul tema invece della banda ultralarga, che come sappiamo è la banda capacità tra i 30 e i 100 megabit per secondo, si tratta di attivare il processo, diciamo, di diffusione della banda appunto ultralarga nell'ottica degli obiettivi dell'agenda digitale europea, anche in questo caso valorizzando il più possibile quanto esistente, ma anche in questo caso cercando di reperire fondi a livello centrale e a livello locale. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.